2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 20 dicembre 2008, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale 2024 è radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet per essere riascoltata grazie al servizio podcast. Questo è un nuovo modo di distribuire contenuti su internet, potremmo anche dire uno dei nuovi modi per fare la radio, e quindi vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al nostro servizio di podcasting. Tutte le informazioni sono su www.radio24.it, oppure se preferite potete inviarci una email, vi risponderemo con alcuni suggerimenti con il percorso migliore per appunto abbonarvi gratuitamente. Lo ripeto, questo non è un abbonamento a pagamento, è una sottoscrizione con un software particolare, tutto molto molto semplice. Sicuramente per gli appassionati dei prodotti di Apple, la notizia più importante della settimana riguarda il prossimo Macworld in programma a gennaio a San Francisco, che sarà l'ultimo al quale Apple prenderà parte e probabilmente alcuni dicono sarà anche l'ultimo in assoluto. Oltre ad annunciare questa decisione, la Apple ha aggiunto che a tenere il cosiddetto keynote, il discorso inaugurale, la presentazione, sarà Philip Schiller, Senior Vice President del Marketing, e non Steve Jobs, quindi il capo, il numero uno della Apple. È sicuramente la fine di una tradizione, vista l'attesa che precedeva il discorso inaugurale del Macworld di Steve Jobs nelle 11 edizioni. Questa sarà la 12ª, uno dei momenti sicuramente in cui Apple annunciava le novità più importanti dell'anno, e se mai ce ne fosse bisogno anche una conferma dello stato di crisi che vivono le fiere, tanto che Apple ha detto di contare su altri canali internet e gli Apple Store in modo particolare, piuttosto che sulle fiere diventate un mezzo minore con cui raggiungere i clienti. Su internet si parla anche molto dello stato di salute di Steve Jobs, visto che appunto Apple ha annunciato che non sarà lui a tenere il keynote, ma vi lasciamo appunto, se siete appassionati e interessati a questo tema, alla lettura di molti siti dedicati all'argomento su internet. Altre notizie che arrivano dagli Stati Uniti: nonostante le discrete aspettative che i produttori di videogiochi hanno per il 2009, la crisi si fa sentire anche in questo settore. Il più grande produttore di videogame, la Electronic Arts, ha annunciato di licenziare 1000 persone, pari a circa il 10% della forza lavoro, e chiuderà 9 delle 50 sedi dell'azienda sparse nel mondo. Cisco ha pubblicato l'annuale Security Report, dove vengono indicate le cifre del fenomeno spam. Secondo la società americana, il 90% delle email spedite e inviate in tutto il mondo, pensate, il 90% è riconducibile al fenomeno dello spam, quindi i messaggi e spesso comunicazioni commerciali non desiderate. Secondo questa stima, ogni giorno circolano nel mondo circa 200 miliardi di messaggi di questo tipo. Una notizia che arriva invece dal Giappone: Panasonic comprerà la rivale Sanyo per 4,5 miliardi di dollari, nascerà il secondo produttore di elettronica del Giappone, secondo solo dopo la Hitachi. Gli Stati Uniti hanno simulato questa settimana un attacco informatico contro le principali reti del paese e hanno scoperto che alcune infrastrutture potrebbero essere violate da un cyber attack. La simulazione ha coinvolto per 2 giorni 230 tra rappresentanti delle agenzie governative della difesa e della sicurezza, alcune società private e anche alcuni gruppi civili. Una notizia che invece riguarda l'Europa e l'Asia, in modo particolare l'Egitto. Partiamo da una considerazione che è quella relativa ai cavi sottomarini, ai grandi cavi sottomarini che collegano i continenti e che portano internet in tutto il mondo, che stanno diventando sempre più importanti e spesso sono anche una misura della crescita economica di un paese o di una determinata area geografica. Quando questi cavi si guastano sono guai seri. Da 2 giorni Egitto, India e i paesi del Golfo sono isolati dall'Europa a causa dell'interruzione di 3 cavi sottomarini in fibra ottica che sarebbero stati tagliati per cause non ancora chiarite o comunque ancora non comunicate. Il guasto è avvenuto ad una decina di chilometri dal porto di Alessandria d'Egitto, non è la prima volta che succede una cosa del genere. Il Ministero delle Comunicazioni e delle Tecnologie Informative egiziano sostiene che due dei tre cavi tagliati siano gli stessi che avevano avuto una avaria analoga a gennaio scorso. Parleremo anche di questo la prossima settimana con una interessante intervista per proprio ribadire l'importanza che hanno queste grandi infrastrutture, anche per capire che cosa succede, ad esempio, quando uno di questi grandi cavi si guasta. Parliamo di musica. Nel 2008 sono state vendute 1 miliardo di canzoni digitali. Secondo la società di ricerca Nielsen SoundScan, la crescita del mercato mondiale della musica online è stata del 28% rispetto al 2007. Nel frattempo, l'industria della musica sta cambiando la propria strategia per limitare il download illegale di brani protetti dal diritto d'autore, quelli che vengono scambiati tramite i sistemi peer-to-peer. Negli Stati Uniti la strada intrapresa è quella di una maggiore collaborazione con gli Internet Service Provider per bloccare gli utenti che usano il peer-to-peer a fini illegali. Il cliente riceverà 2 o 3 avvisi e in ultima istanza gli verrà tagliato il collegamento. Questa è una misura basata su accordi commerciali tra privati, mentre alcuni di voi sapranno che in Francia questa è una strada che dovrebbe diventare legge, anche se il Parlamento europeo si è più volte pronunciato contro. Certo è, e questo l'abbiamo detto più volte, che l'uso esagerato che molti utenti fanno della rete internet mette in crisi il sistema, sta mettendo in crisi gli operatori. Chi usa il peer-to-peer satura tutta la banda a disposizione, facendo una cosa che non era stata prevista dal sistema, da chi aveva progettato le reti. Internet è nata assieme al World Wide Web, al www, quindi alle pagine che richiedono una navigazione che consuma molta poca banda. Da quando è nato questo potremmo dire malcostume dell'utilizzo smodato del peer-to-peer, sicuramente qualche cosa è entrato in crisi. Abbiamo detto più volte che il cattivo comportamento di una minoranza, sicuramente una minoranza anche se molto numerosa, tra l'altro fa qualcosa di illegale, spesso qualcosa di illegale, avrà conseguenze su tutti i navigatori, perché gli operatori sicuramente prenderanno delle contromisure. Alcuni lo stanno già facendo, alcuni ci stanno pensando. C'è poi un altro fenomeno che mette in difficoltà chi gestisce le connessioni alla rete. Ecco che cosa ha detto recentemente Franco Bernabè, che è l'amministratore delegato di Telecom Italia. Credo che la prima cosa debba essere la consapevolezza che non possiamo pensare che gli operatori di telecomunicazioni diventino dei puri trasportatori di bit. Bisogna consentire agli operatori di avere un ritorno adeguato dei loro investimenti e soprattutto bisogna consentire agli operatori di crescere nella qualità dei servizi e nella diversificazione dei servizi che possono erogare. Quello che è avvenuto nel corso degli ultimi anni è che sono cresciuti operatori internet over the top con dei risultati economici straordinari che hanno avuto il beneficio di poter accedere a delle reti a larga banda con degli applicativi che consumano sempre più banda. E quindi tutto l'onere degli investimenti è ricaduto sugli operatori, soprattutto sugli incumbents, che sono quelli che gestiscono delle reti. Naturalmente, come capita in molti ambiti, il discorso è molto complesso, ma in pratica potremmo tradurre dicendo e facendo un esempio molto, molto semplice. YouTube sta avendo così tanto successo grazie alle reti di telecomunicazione che hanno costruito altri e non certo YouTube. A parte il caso di YouTube, che non è ancora inattivo e paga per avere banda a disposizione, è vero che agli operatori di rete va stretto il solo mestiere di trasportatori di bit. Ci potranno essere molte risposte. Una risposta parziale a questo problema potrebbe essere quella che è stata ipotizzata dal Wall Street Journal questa settimana, che dice: negli Stati Uniti si sta lavorando per trasformare la rete in un grande distributore di contenuti con precedenza per chi paga, e questo a scapito della neutralità della rete, che è invece l'elemento fondamentale su cui è nata e si è sviluppata l'economia che si basa su internet. Che cos'è la neutralità della rete? Il concetto per il quale la rete non discrimina i contenuti, qualsiasi contenuto transita in rete alla stessa velocità. Mentre invece, secondo l'ipotesi del Wall Street Journal, ma non è la prima volta che si parla di questo, alcune industrie, soprattutto quelle che erogano contenuti e fanno business su questi contenuti, sarebbero disposte a pagare gli operatori di rete una tariffa per far transitare più velocemente questi dati. E naturalmente in questo caso, se io utilizzo un sistema che è più veloce, sarò più incentivato, insomma mi piacerà molto di più vedere, guardare questo contenuto, utilizzare quel servizio piuttosto che altri. Il discorso anche in questo caso è molto complesso perché coinvolge anche il concetto di democrazia della rete, quindi della possibilità che tutti siano uguali nel transitare sulla rete. Parleremo sicuramente in futuro di questo concetto e anche di questi problemi che stanno nascendo in rete. Oggi invece vogliamo parlare della Digital Divide in Italia e di che cosa è possibile fare per il consumatore finale che non ha a disposizione la rete ADSL oppure un altro sistema via cavo per collegarsi alla rete internet. Beh, ci sono fondamentalmente altri sistemi che si basano sulle connessioni senza fili, ovvero i sistemi wireless. Potremmo citare, e l'abbiamo fatto più volte, i sistemi basati sull'UMTS, sulle reti di telefonia mobile, dette anche 3G o 3,5G, dove esiste la rete HSPA, che è una sorta di evoluzione dell'UMTS, e poi sta arrivando in alcune aree limitate del paese, ci sono già alcune offerte commerciali, ma potremmo dire che sta arrivando nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, il sistema e servizio basato su tecnologia WiMAX, di cui parliamo oramai da mesi e mesi e mesi. E c'è un'altra tecnologia che sta avendo un buon successo un po' in tutta Italia, che è l'HyperLAN. E di questo parleremo tra poco perché ci sono alcuni esempi molto interessanti. Potremmo citare anche la tecnologia Wi-Fi, ma spesso questa serve per collegarsi in ambito locale, dove già esiste un abbonamento per collegarsi ad internet, quindi ad esempio il Wi-Fi serve per poi diffondere il segnale internet in una casa, in un albergo, in una piccola area. C'è a mia conoscenza solo un esempio in Italia, a Pisa, la società Nettare che opera come internet service provider tramite Wi-Fi in Toscana e in una piccola area del Veneto, proponendo abbonamenti veri e propri basati appunto sul Wi-Fi a partire da 9 euro. Sicuramente un'esperienza molto interessante di cui in passato abbiamo parlato a 2024. Bene, adesso ci fermiamo per un minuto, riprenderemo proprio da qui per parlare delle alternative alla DSL, anche alla fibra ottica nelle poche aree del paese dove è disponibile la fibra ottica. Quali sono le alternative alla DSL per collegarsi ad internet? Questa è la domanda che ci stiamo facendo oggi. Abbiamo detto che stiamo parlando di tecnologie via radio, l'alternativa alla DSL oppure alla fibra, ma come dicevo la fibra è un'esperienza per alcuni privilegiati in alcune aree del paese, Milano sicuramente con un esempio, forse uno dei più interessanti a livello mondiale, che è la rete costruita qualche anno fa, che viene oggi gestita da Fastweb, in realtà da Metroweb, ma insomma poi i servizi sono erogati da Fastweb. Ma come dicevo, insomma, questo è un privilegio per pochi in Italia e purtroppo ci sono molte persone nel territorio del paese che ancora non sono raggiunti nemmeno da una cattiva DSL, cioè proprio non hanno la possibilità di collegarsi ad internet in banda larga. Quali sono le alternative? Le alternative sono costituite da sistemi via radio. La telefonia mobile sta facendo la propria parte, c'è sicuramente il vantaggio di una estrema mobilità utilizzando un sistema con una chiavetta UMTS, ma ci sono anche tutta una serie di svantaggi. Non esiste al momento, ad esempio, una vera e propria flat. Ci sono in alcune aree alcuni problemi di affollamento quando troppe connessioni insistono su un'antenna, insomma, si naviga molto piano. Arriveremo a parlare addirittura anche di una possibilità offerta dal satellite per i più sfortunati, ma forse le due tecnologie che oggi sono maggiormente interessanti sono il WiMAX, che arriverà nelle prossime settimane in molte aree del paese e dovremmo riuscire a parlarne a gennaio, ma oggi vorremmo parlare dell'Hyperlan, una tecnologia forse poco conosciuta, almeno con questo nome, forse vengono conosciuti alcuni servizi, ma è una tecnologia molto stabile, molto affidabile, che permette di offrire collegamenti paragonabili alla DSL. Saluto Riccardo Losselli, che è uno dei fondatori di E4A, un operatore che nasce in Veneto e un operatore che offre appunto questi servizi in aree sempre maggiori. Riccardo, benvenuto a 2024. Ciao, grazie dell'invito. Senti, voi avete investito negli ultimi anni in una tecnologia che alcuni dei nostri ascoltatori avranno sentito, che alcuni conoscono, che si chiama Hyperlan. È una tecnologia senza fili, quindi fondamentalmente è possibile collegarsi ad internet senza avere un cavo, che sia la DSL, che sia la fibra ottica, che arriva a casa nostra, ma con un'antenna. Poi parliamo anche dello sviluppo di questa tecnologia, ma prima di tutto di che cosa stiamo parlando, quindi facci capire anche qual è l'esperienza dell'utente finale che si abbona ad un collegamento ad internet di questo tipo. Stiamo parlando di un collegamento a banda larga, quindi con le stesse caratteristiche di una connessione ADSL tradizionale su cavo, che viene fornito anche nelle aree in cui, anzi tipicamente nelle aree in cui il servizio tradizionale non è presente, e che viene dato al cliente in modalità wireless, quindi tramite l'installazione di un piccolo apparato presso l'abitazione o la sede della persona, viene installata un'apparecchiatura che si collega via radio a un punto di trasmissione, solitamente nell'arco di qualche chilometro di distanza, e tramite un normale cavo di rete fornisce poi il collegamento interno nell'ufficio, nell'abitazione di chi usa il servizio. Senti, voi siete nati in Veneto, vi state espandendo in altre regioni, grosso modo qual è l'area di copertura delle vostre antenne? In questo momento la copertura è attiva sulla provincia di Vicenza, Padova, Treviso, Verona e sulla provincia di Trento. Che portata hanno queste antenne? La portata è variabile ed si è evoluta nel corso degli anni. Noi abbiamo cominciato a usare questa tecnologia subito dopo la pubblicazione del decreto Landolfi, che ha permesso l'utilizzo di questa, appunto, di questa tecnologia, di questa via, tecnologia radio, via radio. Abbiamo aumentato man mano la copertura del servizio. Ovviamente le prestazioni migliori si hanno riducendo sempre di più la distanza fra gli utenti e il punto di trasmissione. In questo momento noi cerchiamo di non avere utenti con distanze superiori ai 5-10 km dal punto di trasmissione. Quindi, grosso modo, per farci capire dagli ascoltatori, parliamo di una tecnologia che viene utilizzata e la cui infrastruttura funziona in maniera simile, non uguale, ma simile alla telefonia cellulare mobile. Sì, con potenze estremamente più basse in gioco, con il vantaggio ovviamente di non creare problemi di eventuali eccessivi campi elettromagnetici, con l'unico difetto da questa bassa potenza della necessità di avere una piena visibilità ottica fra il punto di trasmissione e l'utente che riceve. Quindi, ad esempio, all'interno della casa o dell'edificio il segnale non è presente. Questo è il motivo per cui viene installato un apparato esterno proprio per la ricezione. C'è una piccola antenna. Sì, una piccola antenna. Quindi diciamo che se io ho la casa, di fronte a me c'è un palazzo e la vostra antenna sta di là dal palazzo, non si può fare. No. Perfetto. No. Però diciamo che soprattutto nelle aree rurali dove non esiste la DSL, questa è una buona soluzione. Tant'è che voi avete già quanti utenti? Noi in questo momento abbiamo circa 8.000 utenti. Uno dei vantaggi di questa tecnologia, dicono gli esperti, ma poi voglio capire poi sul campo se le cose stanno così, è che si possono fare tagli diversi di offerta anche a prezzi molto bassi. Sì, uno dei vantaggi principali per un operatore come noi è che la rete è completamente nostra. Noi abbiamo tutta l'infrastruttura radio che è di proprietà e di gestione nostra, quindi possiamo sia creare dei tagli su misura come prezzo, sia dei tagli su misura come velocità. Questa rete radio poi è collegata al resto di internet tramite tele dorsali in fibra ottica. Nel caso specifico nostro Nel corso del 2008 abbiamo sviluppato una rete in fibra focalizzata principalmente su Milano e Roma per motivi di sicurezza e di stabilità del servizio, e questa rete in fibra viene poi utilizzata per collegarsi direttamente con gli altri operatori nazionali su Milano e Roma verso internet, e negli ultimi mesi, quindi da agosto in poi, abbiamo attivato una serie di nodi anche in Europa. Per cui abbiamo un collegamento diretto su Londra, su Amsterdam, su Dublino, stiamo attivando Berlino. Sì, qui ci sono Praga. Collegamenti per collegarsi alla rete internet, sì, generale. Sì, in modo da avere un collegamento diretto con gli altri operatori. Sì, tu dicevi abbiamo la possibilità di fare prezzi più bassi, un po' come succede con la DSL quando gli operatori riescono a fare il cosiddetto unbundling, quindi entrare nelle centrali di Telecom Italia, installare una propria infrastruttura ed erogare quindi un servizio in maniera molto più vicina all'utente, quindi senza comprare all'ingrosso tutta l'infrastruttura da Telecom Italia. Infatti ci sono delle offerte con prezzi anche un po' più bassi per alcune zone raggiunte dalla DSL. Nel vostro caso il prezzo d'entrata, se io fossi un utente che non ha bisogno di grandi esigenze, mi trovo in una zona dove non c'è la DSL ma c'è il vostro servizio, quanto pago? Il servizio base, che è alla stessa velocità di una vecchia Alice BBB, se ce la ricordiamo di qualche anno fa, da un mega, 256 kilobit, okay. Parte da 9 euro al mese IVA compresa, con anche la possibilità di avere una linea telefonica già compresa nel servizio, 8 indirizzi IP statici, più una serie di indirizzi IPv6. E, quindi insomma, per navigare in internet va bene. Insomma. Sì, per una necessità base è sicuramente interessante, anche perché ovviamente non è legata al canone Telecom o alla presenza di una linea telefonica. Sì, che tra l'altro, come ricordo gli ascoltatori, l'abbiamo già ricordato, aumenterà a partire da febbraio, canone legato alla telefonia fissa. Se invece sono più esigente e voglio un po' di mega a disposizione? Le linee ovviamente poi crescono con le necessità. Con un 18 euro al mese un utente può attivare un collegamento da 2 megabit, con 28 euro al mese ha un 4 megabit e su fino a tagli da 25 megabit simmetrici. Senti, alcuni esperti dicono che è meglio il cavo rispetto alle tecnologie wireless, cioè dove c'è la possibilità di avere un collegamento via cavo, questo è preferibile rispetto all'aria, quindi alle onde radio. Nel vostro caso come quindi esiste qualche difetto della tecnologia? Sì, la tecnologia, il difetto principale è proprio questa necessità di piena visibilità ottica fra il punto di trasmissione e il punto di ricezione. L'altro problema può essere o l'affollamento del canale di trasmissione o eventuali interferenze. Ovviamente su numeri di utenze molto elevate il cavo permette di avere un numero di utenti collegati alla centrale nettamente superiore a quello che è il numero di utenti che si può collegare a un ripetitore singolo. C'è un discorso sul cavo migliore o peggiore del wireless. Può essere vero in linea di massima che il collegamento via cavo può in certi casi essere migliore, è anche vero che dipende dalla qualità del cavo. Del cavo, del rame, della DSL, eccetera, eccetera. Continuiamo questa puntata, come sempre vi ricordo il nostro appuntamento va in onda il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30, ma c'è anche un'altra possibilità per ascoltarci, ovvero via internet scaricando il file della nostra trasmissione a partire dal lunedì della settimana successiva. Potete andare sul nostro sito internet www.radio24 e abbonarvi gratuitamente al servizio podcast, oppure potete decidere anche di scaricare manualmente dal sito il nostro file, ma con il sistema podcast tutto è molto più facile. Si può decidere se aggiornare automaticamente il file oppure con un software di gestione del podcast si clicca su aggiorna e il software fa tutto. Se volete informazioni, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, grazie anche a Luigi Borghi in redazione. Adesso stiamo parlando dei sistemi alternative per collegarci ad internet quando non esiste la DSL. Uno, l'abbiamo ripetuto, è la telefonia mobile, ma non esiste purtroppo ancora una flat vera e propria, ci sono una serie di limitazioni, c'è se vogliamo un premio che è quello di mobilità, cioè si può viaggiare anche in automobile, in treno e si può rimanere collegati ad internet, ma ci sono una serie di altre limitazioni. Recentemente abbiamo fatto una puntata dedicata a questi sistemi e uno dei problemi più gravi è che in alcune aree della città, in alcune zone periferiche ci sono problemi di affollamento, troppa gente che si collega ad una cella e il sistema si satura. A conferma di questi problemi sapete che alcuni operatori, in modo particolare uno, cioè Vodafone, stanno entrando sempre più nel mercato della DSL. Questo conferma il fatto che la telefonia mobile non è sufficiente, non ha banda a sufficienza, anche se ci sono progetti per incrementare la potenza dei sistemi, ne abbiamo parlato anche recentemente. Prima di proseguire, ricordavamo poco fa dell'aumento del canone Telecom per l'utenza residenziale, che comporterà un rincaro di circa 18 euro ogni anno. C'è in programma anche un aumento del prezzo che Telecom fa pagare ai concorrenti che usano l'ultimo miglio per fornire ad esempio la DSL. Due giorni fa Fastweb, Vodafone, Wind e Tiscali hanno ribadito la propria contrarietà all'aumento delle condizioni economiche dei servizi cosiddetti di unbundling. L'unbundling, lo ricordiamo, è un'operazione che permette ai concorrenti di installare nelle centrali Telecom proprie macchine, proprie infrastrutture per erogare il servizio al consumatore finale affittando solo l'ultimo tratto di doppino telefonico. La diffusione dell'unbundling è importante per aumentare la concorrenza e soprattutto per creare un mercato con molte offerte. Ad esempio ci sono ADSL ad un prezzo molto basso e questo è molto positivo. Giusto per fare un esempio sul mercato, una delle più economiche è quella offerta da Tiscali, la mini di Tiscali a solo 10 euro al mese. Ecco, questa offerta è possibile solo per quei clienti che si trovano in zone raggiunte dalla rete di Tiscali in unbundling, mentre per quanto riguarda le altre ADSL o altre società affittano all'ingrosso tutto il servizio da Telecom, ma sono vincolate appunto ai prezzi, alle offerte, ai tagli di offerta di Telecom. Quindi l'unbundling serve anche per aumentare la concorrenza. Sull'aumento di questo canone che noi non vediamo ma che poi si può riversare a cascata sul nostro abbonamento, dicevo, l'Authority si pronuncerà a partire da gennaio, in gennaio, per un aumento che entrerà in vigore a partire da marzo 2009. Naturalmente questo, come dicevo, potrebbe comportare a cascata un aumento dei canoni pagati dai clienti degli operatori alternativi e purtroppo questa non è una buona notizia perché insomma dovremmo vedere invece prezzi in discesa e non prezzi in aumento per internet. Se è vero che questo è, come è vero, il prossimo mezzo di comunicazione, anche uno strumento per la diffusione e la crescita delle democrazie in tutto il mondo, dovrebbe essere accessibile a tutti. Oggi purtroppo i prezzi per entrare in internet per una famiglia media all'anno comportano una spesa di 350 euro. Questa è una media fatta a spanne, ma se si considera che spesso la DSL deve essere accoppiata ad un abbonamento telefonico, questo è il prezzo. Bene, continuiamo a parlare di alternative alla DSL classica. Abbiamo citato il caso di E4A, questo operatore veneto che oramai si è diffuso, poi parleremo anche di un altro operatore. Riccardo Losselli, uno dei fondatori di E4A, è con noi. Vorrei capire quali sono le differenze tra il WiMAX, di cui abbiamo parlato e di cui parleremo probabilmente in gennaio nuovamente, ma soprattutto vorrei capire perché questa di cui stiamo parlando è una tecnologia oramai adulta, oramai matura, di cui conosciamo molte cose, stiamo parlando dell'Hyperlan, perché un operatore come il vostro ha scelto di non passare alla tecnologia WiMAX, che costa perché comporta un prezzo per una licenza e quindi c'è anche questo fattore da tenere in considerazione, ma perché? perché abbiamo fatto una valutazione tecnica di quella che è la situazione in Italia, confrontandola anche con le esperienze di colleghi all'estero che prima dell'Italia avevano già acquisito le licenze WiMAX. Non abbiamo ritenuto adeguati i costi necessari per sviluppare la licenza WiMAX e nel nostro caso riconvertire tutta la rete e tutti gli utenti alla tecnologia WiMAX, non ci sono giustificazioni tecniche per la cosa e soprattutto, visti i costi di licenza, probabilmente non sarebbe stato possibile per noi neanche mantenere, quei prezzi che abbiamo attualmente. Sì, perché voi, lo ricordiamo, siete un piccolo operatore. Sì, relativamente parlando, sì. Un piccolo operatore che però sta facendo molte cose. Non ultima, e questo è penso che sia un disegno interessante da raccontare, insomma, un'evoluzione interessante di come stanno cambiando le cose. Tu hai parlato di una rete in fibra, state collaborando con una regione in particolar modo e vorrei approfittare della vostra esperienza per dire agli ascoltatori che là dove non si sta muovendo per mille motivi, alcuni anche giustificabili, lo Stato e l'operatore principale nella costruzione di una rete di nuova generazione in fibra ottica, in maniera molto lenta, ma comunque un po' più avvantaggiata rispetto allo Stato centrale, si stanno muovendo le regioni. Ci sono stati alcuni annunci che poi sono stati un po' disattesi dalle pianificazioni, però ci sono delle regioni che stanno investendo nella fibra. Con chi state collaborando voi? Noi con la fibra in questo momento abbiamo due progetti attivi, uno nostro su Vicenza, dove abbiamo la maggior parte degli utenti, su cui stiamo attivando una rete in fibra nostra. E quindi vuol dire che scavate, eh? Utilizziamo o cavidotti presenti installando fibra oppure comunque collaboriamo con le aziende che materialmente stendono la fibra, che poi è una fibra di, fra virgolette, proprietà nostra, nel Sì. senso che la fibra viene noleggiata solitamente e accesa con i nostri apparati. Per quanto riguarda invece la collaborazione con le province, la provincia autonoma di Trento ha in corso un progetto di rete mista radio più fibra ottica in corso di evoluzione in questi anni e noi collaboriamo con la provincia sia per quanto riguarda la parte radio sia per quanto riguarda l'utilizzo delle loro risorse in fibra ottica. Quindi vuol dire che se io sono un operatore, cioè sono un'azienda oppure sono un cliente finale, un consumatore, posso avere la fibra in alcune zone, eh? Sì, ovviamente va fatto una verifica, un progetto specifico. In questo momento, purtroppo, vista la struttura in evoluzione e la scarsa diffusione della fibra, i costi, specialmente se ci sono degli scavi, Da di fare, sì. mezzo, possono essere impegnativi. Quindi, normalmente o abbiamo la fortuna di avere una zona già ben servita, oppure sono linee che vengono consegnate in fibra ottica a utenti con esigenze molto elevate. Senti, ti faccio una domanda che fanno molti ascoltatori a proposito del cosiddetto digital divide. Ci sono molte zone, lo sappiamo, che ancora non hanno la possibilità di accedere alla rete ADSL. Per quanto vi riguarda, dove non esiste l'ADSL e dove ancora voi non avete questo servizio in tecnologia Hyperlan, qual è il minimo di utenti richiesti per fare l'investimento e dire benissimo, in quel paese ci sono tot clienti che vorrebbero diventare miei abbonati, porto l'antenna e attivo il servizio? Non abbiamo un minimo standardizzato. Noi abbiamo fatto attivazioni di aree, specialmente nei comuni con cui abbiamo una collaborazione per la copertura del territorio, collaborazione che per il comune è completamente gratuita, anche per zone in cui l'utenza massima servibile era di 5-6 utenze, ovviamente tramite apparecchiature adeguate a giustificare l'intervento. Ovviamente, probabilmente se in un'area c'è un solo utente, non è conveniente attivare il servizio. Nonostante questo, comunque, in alcuni casi lo abbiamo fatto. Per alcuni ci sono delle persone che ne avevano particolarmente bisogno, perché magari studenti universitari o altro, ci siamo impegnati anche con la collaborazione, anche e soprattutto con la collaborazione dei comuni, per creare un piccolo collegamento di prestazioni adeguate a servire un solo utente. Che ovviamente per noi è assolutamente non conveniente da un punto di vista economico, però lo vediamo come un servizio da dare sia all'utente che all'amministrazione che ci appoggia nell'evoluzione della rete. Bene, Riccardo, io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, visto che immagino, insomma, che il lavoro non manchi, No, anche perché fortunatamente no. in questo paese, in questo ambito, a volte le difficoltà sono parecchie. Buon lavoro, a presto, grazie di essere venuto. Grazie. 2024. Tra poco parleremo anche dei satelliti che oramai vengono utilizzati per collegarsi ad internet. Ma continuiamo a parlare di Hyperlan, di questa tecnologia estremamente interessante. Forse l'operatore più aggressivo nel nord Italia, almeno nel nord Italia, è NGI, che ha presentato già da tempo il servizio Eolo. Abbiamo parlato di questo servizio, dell'evoluzione di questo servizio, con Luca Spada, che è stato più volte nostro ospite, sicuramente un grande esperto di reti in Italia. Attualmente la nostra rete copre gran parte del nord Italia. Abbiamo l'obiettivo entro fine dell'anno prossimo di coprire il 90% del nord, e consente anche, tramite il servizio Eolo Voce, di poter fare e ricevere telefonate e di mollare il canone Telecom Italia. Paragoniamo questa tecnologia con le altre tecnologie wireless e magari anche con la DSL. Sì, diciamo che è una tecnologia che consente di arrivare fino, per ogni utente, a bande che arrivano anche oltre i 20 megabit reali, non diciamo come la DSL con una velocità nominale, che poi la velocità reale dipende molto dalla distanza che l'utente ha dalla centrale. È una tecnologia matura, nel senso che sono già 6-7 anni che viene utilizzata, e che tra l'altro consente lato operatore di poter fare nuove celle di copertura con investimenti che sono molto più bassi di reti di terza generazione WiMAX, e per cui è un po' la tecnologia elettiva per le zone in digital divide, dove chiaramente un operatore, avendo pochi utenti potenziali, non può permettersi di spendere 50-60 mila euro per mettere un impianto a cui poi magari si collegheranno 30 utenti. Per quanto vi riguarda, qual è il numero di utenti minimo per che questa tecnologia venga ripagata in breve tempo? Allora, noi abbiamo come numero minimo 20 utenze, quindi un numero molto contenuto. Chiaramente deve essere un paese o comunque una comunità abbastanza adiacente alla nostra copertura, ma se ci sono i prerequisiti, diciamo, tecnici di poter collegare quel centro con solo una BTS, per noi sono sufficienti solo 20 richieste. Se poi l'amministrazione pubblica ci trova anche la location dove andare a installare l'impianto, noi con 20 richieste facciamo l'investimento completamente a carico nostro per portare il servizio. Esistono strumenti come ad esempio telefoni cordless, telefonini, cose del genere, che sfruttano o utilizzano questa tecnologia, o Hyperlan è una tecnologia che, diciamo, rimane racchiusa nell'ambito di antenne che trasmettono e che ricevono? No, rimane chiusa tra chi riceve e chi trasmette. Nulla vieta chiaramente di collegare poi al cavo Ethernet dell'antenna Hyperlan un router Wi-Fi e poi ridistribuire in casa un segnale Wi-Fi. Poi si possono utilizzare PC portatili, telefoni col VoIP, eccetera. Abbiamo parlato quindi di Hyperlan, di questa tecnologia estremamente interessante. Ci sono molte altre esperienze in Italia, alcune le conosciamo, alcune le abbiamo raccontate, altre non le conosciamo, le vorremmo raccontare. Allora invito gli ascoltatori, invito le persone che operano in questo settore a farci conoscere queste esperienze, perché è importante diffondere e distribuire la rete internet per le cose che abbiamo detto poco fa, le cose che diciamo da tanto tempo. C'è un'ultima cosa di cui vogliamo parlare in questa puntata di 2024, ovvero il satellite. In caso estremo, per i più sfortunati che si trovano in zone particolarmente difficili da raggiungere, il satellite sicuramente è una ottima soluzione. Oggi esistono soluzioni a costi abbordabili. Ne abbiamo parlato con Antonio Bove, che è responsabile dei servizi broadband per Astra. Astra Broadband Services ha lanciato oramai da 2 anni sul mercato europeo quello che è il servizio che viene chiamato Astato Connect. È un servizio che utilizza il satellite per i servizi a larga banda nelle due direzioni, quindi è un servizio bidirezionale via satellite, quindi che utilizza il satellite sia per scaricare informazioni, quindi per le attività di download, sia per l'upload. Quindi una tecnologia nuova che tra l'altro nasce da quella che è diciamo, la ricerca che è stata sviluppata a livello europeo dall'Agenzia Spaziale Europea, quindi un programma che nasce all'interno di quelli che sono i programmi di sviluppo dell'Agenzia Spaziale Europea, e da questo sviluppo il servizio è stato poi customizzato per il mercato consumer, quindi si è pensato di utilizzare soluzioni via satellite, quindi dei terminali che fino a qualche anno fa venivano utilizzati principalmente per il mercato business, quindi erano delle soluzioni complesse, costose da un punto di vista installativo, le antenne erano molto grandi, quindi comunque delle soluzioni abbastanza ingombranti. Si è pensato di ridurre da un punto di vista di dimensione e anche ovviamente di costo e anche di facilità di installazione, ridurre tutti gli elementi che sono a contorno del sistema satellitare, quindi un'antenna esterna che è stata ridotta a dimensioni di 80 cm e un modem che viene poi collegato al computer, che oramai è un modem molto piccolo e compatto con costi tra l'altro molto contenuti, per indirizzare quello che è il mercato consumer. Da questa esperienza, quindi da questi sviluppi, Astra e successivamente Astra Broadband Services, che è stata recentemente costituita, hanno lanciato il servizio su tutta l'Europa. Il servizio è commercializzato in 12 paesi europei. In Italia è stato lanciato da poco prima dell'estate attraverso un nostro partner commerciale, e dobbiamo dire che è un servizio che sta avendo un ottimo riscontro a livello europeo. Quando parliamo di satellite e parliamo di tecnologia per connettersi ad internet, naturalmente facciamo riferimento a una tecnologia che viene utilizzata nelle zone non raggiunte, immagino, dalla classica DSL, in zone quindi lontane dalla rete principale, perché immagino, ma poi lo vorrei chiedere appunto a lei, la tecnologia non è comparabile come performance alla DSL classica. Beh sì, utilizzando il satellite necessariamente in termini di velocità, quindi di download e upload, stiamo parlando sicuramente di un servizio non alla stessa, come dire, non comparabile direttamente con quelle che sono le soluzioni satellitari a DSL classiche. Però quello che per noi è importante, nonostante il fatto che il servizio vada a coprire un gap, quello che viene oggi definito il digital divide, comunque è un servizio che si rivolge a una importantissima fetta della popolazione europea. Ci sono diverse stime, studi ovviamente della comunità europea, ma anche studi fatti da società di consulenza specializzate, che stimano questo mercato essere pari al 5 o al 10% di quella che è la popolazione europea, a seconda se si va a considerare il mercato unserved, quindi completamente non raggiunto da servizi a larga banda, o underserved, quindi un mercato che è raggiunto ma da servizi, diciamo, il classico doppino telefonico sul quale si può fare magari una connessione in dial-up, quella che noi facevamo magari qualche tempo fa a casa. I costi di connessione sono molto vicini a quelli di una DSL classica, i prezzi grosso modo si possono avvicinare. Quali sono però le velocità e soprattutto che tipo di infrastruttura tecnologica è necessaria? Allora, da un punto di vista di velocità ci sono diversi service package che vanno dai 2 megabit di download e 128 kilobit in upload in giù, quindi ci sono pacchetti da 2 megabit, da 1 megabit, anche da mezzo megabit, quindi di fatto sono delle soluzioni che superano quello che ci sono a metà tra quello che è la connessione dial-up classica e le connessioni internet a DSL a 8 megabit o 4 megabit che sono attualmente commercializzate. Da un punto di vista di infrastruttura è una soluzione molto semplice, come ho detto prima, quindi c'è necessariamente bisogno di un'antenna satellitare, quindi un'antenna ad 80 cm. L'antenna utilizza un LNB particolare che ovviamente utilizza satellite sia per l'upload che per il download, e poi si utilizza un modem che è un set-top box molto piccolo e compatto che viene collegato poi con il cavo internet al proprio PC. La novità del servizio è che è un sistema molto semplice, quindi anche l'installabilità del sistema può essere effettuata direttamente dal consumatore finale. Tanto per darle un'idea, sul mercato tedesco il 70% delle installazioni vengono fatte direttamente dal cliente, questo perché il sistema ha in dotazione un una piccola scatoletta che permette di individuare il giusto livello di segnale per avere una buona ricezione e una buona trasmissione. Quindi con questo piccolo oggetto tecnologico il consumatore può fare l'installazione da solo e risparmiare quelle che sono poi i costi tipici di installazione, che vanno dai 70 a 150 euro a seconda poi dei casi. Sul mercato italiano ci sono due fornitori di connettività internet via satellite, quello di cui abbiamo parlato, Astra2Connect, un servizio basato sui satelliti di Astra, prezzi a partire da 30 euro al mese, e Two-Way di Eutelsat. In questo caso il funzionamento è simile, con prezzi che partono da quasi 36 euro al mese, anche se in questo periodo ci sono alcune promozioni, alcune offerte promozionali. Bene, noi vi salutiamo per questa puntata, ci risentiamo la prossima settimana, sempre nel pomeriggio del sabato di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Rispondiamo ad una domanda di un ascoltatore che ci ha chiesto quando fare acquisti tecnologici. Beh, secondo le nostre fonti, dopo le festività, all'inizio dell'anno ci sarà un abbassamento di alcune fasce di prezzo per quanto riguarda la tecnologia. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo per l'ascolto, ci risentiamo la prossima settimana. You are disconnected.